Bene, allora io do il benvenuto e iniziamo questa serata ringraziando il pubblico di essere qui con noi per una conferenza con il nostro amico Adel Jabbar che ogni anno ci accompagna con una sua conferenza, con dei suggerimenti bibliografici e quindi è un'occasione sempre di incontro, di confronto sulle tematiche, chiaramente anche in cui lui è più, diciamo, inserito da un punto di vista anche professionale, in quanto sociologo, ma anche coinvolto. Ed è in questo caso, questa sera, il titolo della conferenza, Pagine autobiografiche dell'immigrazione in Alto Adige. Abbiamo preparato una bibliografia di alcuni testi che ha curato e scritto Adel Jabbar. Colgo l'occasione, come sempre, per raccontarvi anche quello che sarà nelle prossime giornate qui al Centro Trevi, a parte la mostra Antichi Egizi che vedete, di cui vedete anche un roll-up qui e che potete visitare durante gli orari d'apertura. La biblioteca invece organizza lunedì 2 ottobre, sempre in questa sala alle 17:30, un incontro con Francesco Marchioro, il suo nuovo libro Freud, Genio infedele, Identità di un ebreo tedesco irreligioso. Quindi lunedì prossimo alle 17:30. Dopodiché avremo mercoledì 4 ottobre alle 17:30 la presentazione del libro Teatro e vita, un libro scritto a cura anzi di Paola Bernardi, dedicato ad Antonio Caldonazzi, attore, regista e drammaturgo. Sarà con noi anche Maria Pia Zanetti che ci accompagna anche questa sera con le letture, ci sarà l'autrice Paola Bernardi e poi ci saranno vari personaggi dello spettacolo. Vi invitiamo a partecipare il 4 ottobre, sempre qui alle 17:30, con il libro Teatro e vita. E poi vi ricordo che abbiamo anche i gruppi di lettura, uno si chiama Localmente, dedicato ai romanzi e alla narrativa locale, e uno invece Tutti Saggi, che è dedicato alla saggistica, in particolare poi alla fine ottobre riprenderà l'Officina del Pensiero, sono degli incontri appunto dedicati alla filosofia e ad alcuni volontari che si dedicano a questo gruppo di lavoro. Adesso vediamo se ho detto giusto, perché Officina del Pensiero, no, in realtà non è alla fine di ottobre, bensì l'11 di ottobre riprendiamo con questi incontri. Se vi interessa e volete approfondire questi argomenti, sappiate che la biblioteca è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18, da lunedì a venerdì e siamo a disposizione per fornirvi tutte le informazioni e contattateci, quindi siamo molto contenti di raccontarvi più dettagliatamente la nostra programmazione. A questo punto basta, vi lascio in compagnia del nostro ospite che ringrazio, Adel Jabbar, è sempre un piacere averlo con noi e ringrazio anche Maria Pia Zanetti che questa sera darà voce ad alcuni passaggi interessanti, anzi iniziamo subito con lei, le cedo la parola e spero di ritrovarvi presto. Grazie. Grazie, grazie Valeria. In realtà io stasera non ero prevista, pensavo di godermi la conferenza tra il pubblico tranquillamente, ma Adel mi ha acciuffato immediatamente e comunque mi fa molto piacere perché la poesia di apertura che mi ha consegnato è anche di una cara amica, Ghentiana Minga, e la leggerò con molto piacere. Ho nostalgia del paese remoto. Mi manca ogni cosa che mi attrae, anche se mi avvicina. Ho bisogno della voce del cibo e l'amica mi è sempre lontana dagli occhi. Mi racconta lo stesso della sua vita, scrutando il pescatore distante dalla costa che recupera con calma i pesciolini dalla rete. Lei sorseggia un caffè ristretto, come piace a me. E mi parla dell'attimo quando il corpo si tuffa nell'onda e trema per la freschezza. Da sotto, in punta di piedi, tocca pietre scivolose, a volte di alghe, conchiglie aperte come delle bocche, a volte piene, rotonde. Mi manca il silenzio dei mattutini in fila sulla riva del mare. L'anziana col cane, che annaffia i piedi con la bottiglia d'acqua. Vivere questo nel presente mi appaga in fretta e e mentre tutto si stempera, ho fame del ricordo nuovo. Grazie. I compiti, prepara i compiti. E grazie Maria Pia, che con molto, molta gentilezza ha citato il mio invito improvvisato in pratica, e l'ho trovato sulla porta qua. Grazie. Grazie all'ospitalità della biblioteca, grazie alla direttrice Valeria, che con cui da anni c'è un, diciamo, un legame fruttuoso. Spesso ci confrontiamo sulla proposta che io propongo, spesso, e poi tramite il confronto in qualche modo si riesce anche a organizzare in un modo piacevole e utile. E, dicevo prima, ringraziamo Maria Pia perché insomma è stata ha ricevuto un invito improvviso, e però come al solito Maria Pia è vero che è molto generosa, almeno nei miei confronti, quando li coinvolgo in opera di recitazione. E grazie anche a tutte e tutti voi che siete qua, siete quasi volti amici che da anni insomma mi accompagnano, con cui insomma si collabora spesso per un po' stare delle attività artistiche, letterarie, e quindi sono contento di essere circondato da voi. E questo intervento è un po' storico, io non lo sono, però ho cercato di mettere insieme i cocci, i pezzi, in parte partendo dalle memorie, partendo dalla conoscenza che ho avuto con diverse persone che in qualche modo si sono cimentati a raccontare, a mettere insieme, no? A definire i profili delle persone che da 30 anni sono parte integrante del paesaggio della nostra provincia. Il mio rapporto con Bolzano è diventato frequente questo rapporto quando sono stato invitato da alcune realtà di Bolzano per affrontare i nuovi temi legati all'immigrazione, legati all'inserimento soprattutto degli alunni stranieri nella scuola italiana, soprattutto all'inizio, e il rapporto con i familiari di questi ragazzi, ma anche sono stato invitato perché sentivo, io a Trento non è molto lontano, anche se ero spesso in giro, in pratica sono residente presso la ferrovia, no? Sempre ho passato molto tempo in treno, però seguivo Collina Pasquali, ex Saeta, ex Zanardi, e poi quel tempo lì c'era anche, sono entrati l'ex Unione Sovietica e l'ex Jugoslavia, insomma nel periodo degli anni 90 il mondo è di ex, no? Tutto diventa ex. E quindi questa cosa qua, queste diciture sollecitavano me diverse curiosità. E quindi, quando ho cominciato a frequentare Bolzano, al fine di capire, perché io facevo sociologo, e lo faccio ancora a modo mio, sono sociologo narrativo, no? Sono stato uno dei primi inviti, vabbè, l'associazione Nelson Mandela, che qua c'è un suo fondatore, Salvatore Falcomatà, la cooperativa CEDOX, che è una cooperativa che si occupa di educazione permanente, mi hanno chiesto alcune cose sul tema dell'immigrazione, ma anche sulla lingua araba. Poi con la cooperativa sono rimasto tuttora insomma a collaborare. Infatti i primi corsi sulla mediazione culturale sono stati fatti organizzati dalle cooperative CEDOX. Poi con le cooperative sono nate diverse collaborazioni, prima ricerca su vari temi, fra cui mi ricordo molto bene il tema della sicurezza, no? L'immigrato, no? È una scheggia, no? che viene ancora purtroppo considerato un pericolo per l'ordine pubblico. Quindi intervistando figure diverse, naturalmente le persone che si occupano di questi temi dell'ordine pubblico, quelli erano i più tranquilli, no? Rispetto alle opinioni pubbliche, diciamo, diffuse. Quella che mi sembrava una cosa interessante, che le forze dell'ordine erano meno preoccupati di una certa opinione diffusa nella società civile. E anche parlando con loro, perché insomma loro dicono: noi abbiamo visto di tutto, no? Quindi questa cosa qua che oggi ci sono, allora c'erano, non sono particolarmente una novità o un pericolo particolare, o rappresentavano un pericolo particolare. E quindi i miei rapporti, dicevo, sono diventati più frequenti perché ho avuto l'opportunità, la fortuna di collaborare con l'Istituto Pedagogico in Lingua Italiana. Qua c'è la dottoressa, benvenuti, che si ricorda i primi passi su questi temi qua. Siamo inizi anni 90, 95, però prima anche alcune scuole mi chiamavano qua per vedere che cose possiamo fare per questi alunni stranieri che non sapevano una parola di italiano. E te, per forza, non erano nati in Italia, per cui insomma. E però ho trovato un ambiente che si interrogava, per la verità, un corpo docente, c'erano i singoli, come dire, operatori delle scuole svegli, interessati, e volevano apprendere, conoscere, e per loro quel momento lì rappresentava una curiosità, anzi anche un'opportunità, no? Per anche cambiare, no? Certi meccanismi educativi, certi pacchetti, certe visioni. E poi con l'istituto pedagogico in pratica abbiamo prodotto tantissime ricerche su questo tema qua, ma anche abbiamo prodotto mi ricordo delle schede didattiche del titolo Conversando, che sono del 98, credo, nel 1998, le prime schede, dove abbiamo cercato di utilizzare le biografie delle persone straniere, soprattutto i familiari, nel raccontarci, no? Il loro vissuto qui a Bolzano, il rapporto con la scuola, il rapporto con la propria lingua, con il proprio gruppo di riferimento linguistico, le aspettative nei confronti dei loro figli, come si trovavano loro nel rapportarsi al mondo scolastico, conversando. E poi, in secondo momento, per la verità, dopo quasi una decina di anni, nasce un altro libro che volevamo andare un po' più in profondità rispetto ai valori familiari dei paesi d'origine, cioè la famiglia degli alunni stranieri, come riproducevano i valori di origine all'interno della propria casa. Quindi era il titolo A casa di, no? Anche qui abbiamo interloquito in quel momento lì, e poi, che è una cosa che io non avevo naturalmente previsto, il fatto che la famiglia d'origine straniera, con la rivoluzione di social, la rivoluzione telematica e tecnologica, hanno cominciato ad avere un assiduo rapporto col paese d'origine. Erano aggiornatissimi, rispetto a feste di compleanno, vicende familiari, cambiamenti. Quindi spesso c'è un'esposizione con il paese d'origine. Questo mi ha fatto interrogare sul fatto che questo tipo di esposizione, questo tipo di continuità relazionale col paese d'origine, è vero che garantisce un tot affettività alle persone d'origine straniera nel momento in cui ne hanno bisogno, nel nuovo posto non è facile avere una fonte effettiva, un rapporto effettivo, profondi, quindi da questo punto di vista. Però dal punto di vista sociologico, questa cosa qua riduce, rischia di ridurre i rapporti con, all'interno dello spazio pubblico, con la popolazione locale? Una domanda mi sono fatto e ancora non ho trovato risposta, naturalmente, perché è importante. Il sapere si sviluppa nel farsi domande, non nel sbrigare, no? A trovare qualche soluzione e dare qualche domanda, anche magari affrettate. Allora, questo mio rapporto inizia, diciamo, da sociologo con Bolzano. E per la verità, posso dirvi una curiosità, ogni tanto, prima di questo rapporto professionale, io venivo a Bolzano perché ho scoperto che a casa di Bezzi, di una volta a casa di Bezzi, facevano un cusciotto di agnello buonissimo, che purtroppo non c'è più, gustoso, tenero, succulente. Quindi ogni tanto, no? Con magari qualche amico, facevamo un salto a Bolzano a questo, trovarmi di fronte a questo cusciotto che non c'è più. Anche questo ex cusciotto, è come ex Zanardi, ex cusciotto. Allora, e poi col passare del tempo, nel 99, poi citerò qualcosa di questo libro, che non so se è presente nella biblioteca qua di Claudia Augusta, uno anche dei primi libri, dove mette del titolo interessante, dove mette le radici, è scritto a quattro mani, come tanti libri, no? Che hanno raccontato l'emigrazione in Italia, di una insegnante, Margherita Gaudiuso Murciano, e Mamadou Gay, che lavora in una cooperativa, che si occupa ancora di immigrazione. E mi hanno chiesto di scrivere l'introduzione. A me, insomma, è piaciuto, ho anche avuto un'introduzione, l'ho letto oggi proprio, mi sembra troppo sofisticata per i miei standard, però no? Sicuramente è intervenuto qualcuno di letterato a darle un assetto più letterario, però è un'introduzione che mi sembrava in quel momento valide e ancora alla sua validità, anche perché poi i temi dell'immigrazione, purtroppo dopo 30 anni, sono rimasti, no? Discussi, dibattuti, trattati nello stesso mondo. Questo mi fa venire in mente una frase attribuita ad Antonio Gramsci, in cui recita così questa frase: la storia è un grande insegnamento, però purtroppo non ha allievi. E quindi la storia si ripete, e anche questa conferenza qua è un po' finalizzata anche a dire che, guardate, gli immigrati a Bolzano sono da più di 30 anni. L'associazione Nelson Mandela è stata fondata nel 1988. La Caritas ha cominciato a occuparsi di queste problematiche anni prima. L'associazione ABAS, Associazione Bolzanina Accoglienza Stranieri, ha iniziato a trattare questo tema, no? Più di 30 anni fa. No? Quindi la collina Pasquali, che era vicino l'inceneratore, credo, era, no? Nata nel 95, no? 95, no? 93. 93, nel 93. E quindi sono tanti anni. E però io mi trovo spesso, mi trovo spiazzato, del fatto che, come fossero questi 30 anni, come non ci fossero. Ma non solo nell'ambito della politica o nell'ambito dell'opinione ricorrente dentro il bar o l'autobus, ma anche nello stesso ambito che si occupa di questi temi. C'è una forma di esorcizzazione di un tema spigoloso, che ogni volta che si tocca no? Come toccare, come si dice, la patata bollente, no? Come avere in mano un gatto a depilare, per cui si cerca di non dire, no? Cioè, anche quando questo linguaggi troppo standard, no? Nel trattare un tema sicuramente molto, molto delicato. E quindi, a questi giorni, nel preparare questa relazione, ho cercato di andare a cercare tutto quello che avevo io raccolto, sicuramente ci saranno molte altre cose, e mi è piaciuto molto questo ultimo fascicolo che è uscito nel 21, è scritto da Roberta Nicolodi, che è una operatrice ex operatrice dell'associazione NISA, e di Barbara Ricci, un'insegnante presso il liceo Carducci. Fanno un libro bello, chiaro, fluido, con passaggi, linkando dei passaggi anche importanti dell'immigrazione, anche se partendo da un visuale delle donne, perché l'associazione NISA si è occupata delle donne, Roberta si è occupata del temi legati alla problematica delle donne, però racconta delle pagine importanti dell'immigrazione a Bolzano. Quindi Roberta dice: io arrivo a Nisa nel 95, quando l'associazione muove i primi passi. Non so ancora cosa potrei fare, ma spinta dalla curiosità di conoscere persone straniere, un modo forse per uscire dai confini di Bolzano, sicuramente per senso di stranietà che credo di condividere con tutte quelle persone che, nate in Sud Tirolo, non si sentono appartenere alla rigida divisione di gruppi etnici. Questa è lo straniero, diventa quasi un alleato, no? Nella ricerca di altri orizzonti, e questa percorre tutti i racconti, tutte le persone, Gaudioso, no? Racconta questa cosa qua, diverse persone che si sono occupati, Elisabetta Bavone lo dice, quindi questo è il bisogno di uno specchio, il bisogno di uno specchio nel quale vedersi, che è l'altro, per meglio conoscere la propria realtà, che è rigida, vive da un schemi è troppo limitanti. Quindi Roberta Nicolodi va avanti, dice: sono i primi anni 90 quando le donne immigrate iniziano ad arrivare, però vorrei risparmiarvi questo, non vorrei dilungarmi perché poi devo leggere tutti i testi. e quindi sono arrivato per superare le divisioni, per trovare una scappatoia dalla rigida divisione per i gruppi etnici, e tra i gruppi etnici, dice: il mio ricordo più vivido è la vista al villaggio per stranieri, noto allora come Collina Pasquali. Vado con un paio di altre socie senza un invito, con molta timidezza e timore di essere invadente. Ho avuto il permesso del guardiano, sempre presente giorno e notte, e oltrepassata la recinzione che circonda l'intero campo, trovo tante porte aperte e altrettante curiosità. Ci invitano nella casa, ci offrono il dolcissimo tè verde alla mente e il caffè alla turca, quello con i fondi, ma soprattutto incontro delle persone che hanno un grande desiderio di conoscere Bolzano, tante storie ed esperienze da condividere, un modo di lavorare molto spontaneo, senza progettazione, ma partendo dai bisogni delle donne e delle famiglie. Lì conosco delle donne con i quali avrei in seguito condiviso progetti, lavoro e amicizie. E questa pubblicazione qua, come dicevo prima, ripercorre tutta una serie di fasi e di situazioni di svolta nell'immigrazione, in cui vengono in questo libro, nel quale vengono citate diverse ricerche. Diverse ricerche che sono state poi progettate, condotte dall'associazione stessa NISA. Quindi, in cui si è utilizzato molto, diciamo, la narrazione biografica, no? Le biografie delle persone che vengono sollecitati e a dire le loro impressioni rispetto al percorso migratorio, il rapporto con il territorio, no? Le vicende della vita quotidiana. Quindi la maggioranza delle interviste, come confermato in seguito, esprime un chiaro desiderio di rendere Bolzano la propria patria di elezione. Una ricerca di questo tipo in provincia di Bolzano finora non è mai stata condotta e mostra come la presenza femminile sia già composita e richiede interventi individualizzati. Emergono le competenze pregresse, professionali e di studio delle donne straniere e il loro desiderio di una ricerca di lavoro qualificata che in qualche modo stride con l'immagine delle donne sottomesse e poco scolarizzate che viene veicolate dai mezzi di informazione. Quindi questo diciamo, l'avvicinarsi, ridurre, no, la distanza tra l'intervistatore, il ricercatore, il facilitatore e le persone si scoprono mondi che spesso anche, nonostante l'esaltazione delle differenze, no, si scopre che sono persone che sono... hanno dimensioni, no? Così di vita uguali, attese, non si differenziano molto di tante altre persone che vivono nel territorio. Così nel 2006 Mari Jensen Carlen, di origine svedese, cura la pubblicazione di un contributo sul significato simbolico e normativo della giornata della donna, mettendo a confronto i racconti delle donne immigrate, le esperienze nei loro paesi d'origine e il significato acquisito in Italia rispetto ad alcuni temi rappresentativi della vita femminile, quali aborto, contraccezione, diritto di famiglia, maternità. Un'occasione per restituire prospettive inattese e nascoste sulla storia di donne immigrate e sulla loro decisione di emigrare, per non far dimenticare che non si nasce il giorno di arrivo in un nuovo paese. Quindi si scopre che ci sono vicende, storie, esperienze, no? Di cui queste persone, in questo caso queste donne, sono interpreti, no? Sono portatori di desideri, no? Di affermazione di sé. Sempre nel libro, questo che ha il titolo Praticare l'accoglienza, viene citato anche questo libro qua, in sospensione tra due mondi, curato da Elisabetta Betti Pavone e da Valeria Vanni. E qua ci sono profili veramente di grande interesse, di persone, soprattutto di donne, ma anche il libro ha messo insieme anche figure di donne italiane che in passato hanno intrapreso il viaggio verso altri luoghi fuori dall'Italia. Però questo libro vorrei, alla conclusione, chiedo a Maria, dopo, a Maria Pia di leggere, perché è bellissimo, una conclusione di una storia scritta da una donna albanese e secondo me richiede un spazio così conclusivo di questo nostro incontro. Nel libro stesso viene anche citato il libro di Frank Zadra, che ha fatto un lavoro interessante anche in collaborazione sia con l'Associazione Nisa e con la Biblioteca Claudia Augusta, sguardi femminili tra appartenenza e mobilità. Un libro dove vengono intervistate circa meno di 20 donne, 20 profili, molto diversi tra di loro. Lei l'ha letto in modo sociologico, io siccome ho detto che sono sociologo narrativo, le dico con le mie parole. La figura rappresentativa della delusione del percorso migratorio. Qualche altro volto l'adesione, no, al nuovo ambiente. E poi c'è il fascino del nuovo luogo, ma soprattutto il nuovo luogo è opportunità. Quando una donna che viene da lontano, non mai si è sperimentata nell'ambito dell'imprenditoria, si scopre di essere imprenditrice. Il suo compagno del luogo voleva lui stesso farla entrare nella sua... No? Un imprenditore voleva far entrare queste donne, no, nel suo ambito, invece ha scoperto la bravura e la competenza di questa donna qua, si è riciclata lui nell'ambito di queste donne, no, di origine straniera. E quindi questo, l'immigrazione come opportunità, l'immigrazione come delusione, l'immigrazione come anche adesione, no, e anche il voler strappare, no, i legami, trovare un modo per lo strappo del contesto d'origine o del gruppo d'origine. Quindi questo libro qua, di Franca Sadre, ci sono tanti profili importanti, no, che hanno costellato questo ambiente. E forse qualcuno non è più, ma comunque... Quelle persone che io penso che non ci sia più, ha dato un grande contributo nel suo agire, insomma, sul tema dell'immigrazione. E questo parlare dell'immigrazione poi alla fine vuol dire parlare, quello che spesso viene trascurato, parlare della società in cui vengono collocati gli immigrati, perché spesso quando noi parliamo di immigrazione, di poi grandissime parole, no, meglio interazione, meglio integrazione, meglio inserimento, no, ci perdiamo dietro di vocaboli, si dimentica spesso, ma in quale società queste persone che vengono collocate? Allora la società di oggi, in questo libro qua, non è più la società, no? E questa Roberta Nicolodi, insieme a Roberta Ricci, lo dicono chiaro e tondo, anche l'associazionismo ha cambiato non solo volto, ma anche sostanza nel lavoro dei luoghi di accoglienza, dei luoghi anche che avevano una funzione di sindacato, no? Di advocacy, di dare voce, perché poi tutta la narrazione di queste donne, che sono prese in considerazione di questi libri, di queste ricerche che ho citato, dietro c'è un'etica, etica della responsabilità, no? Uso, e etica di assunzione, no? Di una prospettiva, no? Valoriale importante, non sono racconti neutri. Da un certo punto di vista sono narrazioni che rappresentano una rivendicazione politica. Questa è la funzione anche delle biografie, ha una funzione politica, dare voce alle fasce deboli per raccontarsi, no? Nel momento in cui non hanno aggregazioni politiche potenti, non hanno legami, non hanno, no, luoghi di potere, allora le narrazioni nelle storie di neri, delle donne, di contadini, no, degli operai, le narrazioni, soprattutto le narrazioni orale, perché qua sono tutti quasi racconti orali, trasmessi, mediati, facilitati, no, da persone, no, da Franca Sadre o da Nicolodi o da Elisabetta Pavone, no? E quindi hanno un'etica, no? Dietro un pensiero politico, così come quindi in questo libro qua c'è diverse sottolineature di come è cambiato la funzione dell'associazionismo, è diventato un associazionismo strumentale a certo tipo di politiche in cui il welfare è venuto a meno, le risorse si diminuiscono, o quindi l'associazionismo, la cooperativa diventano fondamentalmente funzionali a un progetto che spesso non è deciso dall'associazionismo, ma spesso imposto. No? E questo poi lo troviamo anche nel linguaggio, no? Di bandi, delle cose che già offrono anche il linguaggio, le parole che si dovrebbero essere usate. Cioè, no? E quindi questa è una sottolineatura che Nicolodi, particolarmente in questo libro qua, le vive con dolore, perché lei si ricorda delle associazioni, ne sa, degli anni 90, no? E di come ha dovuto affrontare tutta una serie di cambiamenti a livello amministrativo, burocratico, e questo che ha inciso molto anche sui rapporti tra le persone che lavorano o lavoravano o collaboravano all'interno dell'associazione. Ma l'associazione, ne sa, in questa casa qua, potrebbe essere un esempio che può valere per altre realtà, e di cui credo in molti che chi lavora in questo ambito ne sa abbastanza di questa vicenda qui. Questo libro qua, la Valeria Vanni dice, questo libro in sospensione tra due mondi, no? Questo è spesso ricorrente, questa sospensione, questa è la ricerca delle radici, questa è una cosa che ha accompagnato, no? Tutti i migranti nel mondo, in qualsiasi epoca storica, partendo da qualsiasi contesto linguistico, geografico o politico. L'idea di questo progetto, Valeria Vanni è di origine argentina, però come tanti dell'America Latina, in particolar modo dell'Argentina, sono intrecci tra italiani, spagnoli e tante altre provenienze. L'idea di questo progetto l'aveva nel cuore da molto tempo, e si rappresentava ogni volta che parlava con donne di diverse culture che erano migrate dai loro paesi. Mi raccontavano le storie delle loro famiglie, le loro storie personali, aneddoti, ricordi dell'infanzia e della giovinezza. Intende ad ascoltare a tratti stupite dell'eccezionalità e della crudezza a volte di queste storie. Mi rammaricavo del fatto che nessun altro le avrebbe mai ascoltate e che sarebbero andate perdute. Quindi questo è stato, diciamo, il movente. Così come, giustamente e correttamente, l'Elisabetta, nella sua introduzione del libro, Elisabetta Pavone dice: è innegabile che per quanto si cerchi di essere fedeli alla testimonianza, la struttura della storia, la parola scelta, i tali riflettono l'esperienza di chi scrive. Questa è una sottolineatura, secondo me, di grande correttezza. L'esperienza di chi scrive. Il problema più grande che si pone quando non si vuole semplicemente trascrivere un'intervista, ma si vuole darla una forma che inviti il lettore a leggerla. Questa è una sfida. Io ho fatto tante interviste. È un problema. Come renderle incisive. Ma renderle incisive vuol dire interferire, tradire a volte, no? Queste cose qua. Tradire il significato. Anche perché spesso le interviste si fanno con persone, no? Che non hanno una competenza sottile nell'uso del vocabolo, no? E nel definire i tempi. Quindi questo parla di straniero. E intervista, ma si vuole darle una forma quindi che inviti il lettore a leggerle. In questo ci siamo fatte guidare dell'emozione, quella che traspare sia dalle parole e dal tono di chi racconta, sia dalla risonanza di quella storia produce in chi ascolta e dà tono a quel racconto. Non a caso lei scrive anche la sua storia nel libro quanto una donna che ha lasciato il Molise, no? Per arrivare a Bolzano. Ma siete, mi state seguendo? Certo. No? Allora, no, perché io, guardate che ho studiato, Vorrei leggervi Per tornare a questo specchio, Niccolò descrive in pagina 88 perché l'Alto Adige è lo specchio. Questo nel libro qua Niccolò scrive un intervento. Quindi lo riprende questa pubblicazione. Perché l'Alto Adige è lo specchio, quindi il titolo di questa pubblicazione, curata da Franca Sadra, scrive Roberto Niccolodi nell'introduzione: le emigrati e le emigrate, per il solo fatto di esistere, ci costringono a rivelare chi siamo, nei discorsi che facciamo, nel sapere che produciamo, nell'identità politica che ci rivendichiamo. Hanno una funzione specchio, rendono palese ciò che è latente nella società. Non è possibile catalogare l'immigrazione femminile in tipologie predefinite. Non sarebbe possibile trasmettere la ricchezza del vissuto e dell'esperienza che ci portano. Anche gli sguardi delle donne migrate che hanno collaborato al progetto sono unici e ci offrono una grande ricchezza di valori, forze e di flessibilità. Le loro storie richiedono la disponibilità a mettersi in una posizione di ascolto, ma ci offrono prospettive diverse del contesto locale. Questo quando retoricamente si dice l'intercultura è una ricchezza. L'intercultura è ricchezza quando le persone del luogo si mettono in ascolto e cominciano a sentire il bisogno di frequentare il dubbio per uscire da schemi consolidati e di rivedere la propria categoria con cui guardano il mondo. Quando sono disponibili a interrogarsi, un compito difficile, perché le persone sono fatte di abitudini e le abitudini ci danno certezza. Se era dell'abitudine vuol dire frequentare l'ignoto. E questo è un dilemma esistenziale. Bene, allora passo a uno dei libri, diciamo, che possiamo definire, cioè, l'autobiografia vuol dire scrivere, non raccontare, scrivere la propria vita, la storia della propria vita. E uno di, forse l'unico libro che, diciamo, può essere rappresentativo di queste diciture è Il sole nascerà ancora domani di Manuel Alfredo Torres Alfaro. E questo uno si fa naturalmente come tutti, no? Aiutare, però lo scrive lui. Lo scrive lui ripercorrendo la propria infanzia, la propria adolescenza e la prima maturità, no? Quindi il libro finisce con l'abbandono delle proprie paesine in montagna in Perù verso la città per studiare. E questo il sole nascerà domani, un inno alla speranza, vista la vita faticosa, anche familiare, di questo nostro narratore, perché l'autobiografia è il narratore, il protagonista del racconto è lo stesso, lo scrittore stesso, quindi questo legame forte. E c'è la mia testa è invasa da una marea di domande che si fanno ogni giorno insistenti, più pesanti, come se qualcuno mi parlasse senza che io possa vederlo, toccarlo. Domande che bruciano come le lave di un vulcano, domande che scaldano come un metallo liquido. Mamma mia, che mal di testa, i pensieri ci trottano dentro. Poi sentire le lunghe diverse, senza capire niente, non poter chiedere da mangiare o da bere, non essere in grado di esprimere un desiderio, una semplice domanda. Tutto questo è totalmente nuovo per me. E la cosa più triste è lasciare la propria terra. la terra dove sono nato, dove sono cresciuto, non vedere il mio quartiere con le strade, le sue donne chiacchierare, non vedere una faccia conosciuta, il gioco di bambini e di ragazzi, non respirare l'aria, non farsi coccolare dal venticello del quartiere, non sentire l'urlo del vicino, l'abbaiare di un cane, il miagolo di un gatto, il canto di romantici con le loro canzoni di amore, la ballata all'angolo delle strade, il mangiare sulle vie. Questo mi fa ricordare questa descrizione di un bel libro, Vivere altrove, di Marisa Fenoglio, sorella di Fenoglio, il partigiano, che io ho conosciuto questa donna quando sono stata invitata all'Università di Innsbruck per parlare delle Italie, l'Italia è il plurale, no? E c'era anche lei invitata, e il suo libro, la prima pagina proprio, è bellissima, secondo me, da leggere. Quando lei sente il bisogno di lei di Alba, è arrivata che poi era già allora chimica, non è andata, no? È andata insieme al marito biondo che sapeva il tedesco, ingegnere italiano, per mettere, no? Mettere la fabbrica di cioccolato di, credo, Piemonte, no? E quindi, e lei dice, sentivo un dolore quando mi veniva la nostalgia di vedere un muro di velto vecchio della città di Alba, sentire di domenica il caffè, l'odore del caffè nel bar della piazza del paese, e racconta delle cose bellissime, il desiderio di sentire il campanello di casa a suonare, perché nessuno l'ha mai suonato il campanello di casa, dice, non sapevo, dice, a volte scendevo io per sentire chi sono, fa il campanello di casa, no? La solitudine, no? E la lontananza di ogni, no? Quindi quando partite dei social, in quel periodo lì non c'erano dei social, probabilmente la Fenoglio in quel periodo lì, se fosse oggi, si avrebbe collegato con qualche parente, no? Su Facebook o su altre cose e altri strumenti per parlare. Invece, quindi Manolo va avanti e dice, che dolore che si sente, come fosse una cosa nuova e ti consuma lentamente, mentalmente, fisicamente. Subito chiude gli occhi e mi chiedo, sono capace di iniziare una nuova vita? Cominciare di nuovo da zero? E così inizia con la domanda che spesso accompagnano tutte le persone, no? Che partono con anche grandi, come si dice, una delle frasi famose sulle illusioni dei migranti, una frase che è stata citata moltissimo, forse alcuni di voi l'hanno già sentita, una frase famosa di un migrante italiano che è finito in America, gli hanno chiesto, tu perché sei venuto in America? Io sono venuto perché mi hanno detto che le strade sono pavimentate d'oro, e poi quando sono arrivato ho visto che le strade non sono pavimentate d'oro, due, non sono pavimentate affatto, e tre, hanno chiesto a me a pavimentarle, no? Quindi dell'illusione, no? Come dice Franco Cassano, l'immigrante parte verso le terre promesse, poi si trova al Bronx, no? La fatica, le difficoltà, gli ostacoli, gli stereotipi, i pregiudizi, no? Gli stranieri spesso devono rispondere a delle domande talmente irritanti, ma nelle loro banalità. Questo c'è nel libro Dove mette le radici, lo dice Mamadou della sua esperienza. E sicuramente uno di libri che ha avuto una fortuna, no? Ad essere un libro letto a livello nazionale, Vai della pazza guerra, un libro dove c'è Via della pazza guerra, sì, Via della pazza guerra, che è un ragazzo in fuga dall'Afghanistan, dove c'è Gina Bate, che diciamo l'artefice in qualche modo, stimolatore, no, a questo giovane ragazzo, che si mette a raccontare con semplicità, perché il libro sono tutta una serie di fotogrammi in pratica, no? Parole chiave, fotogrammi, tutte le fasi, no, di questo percorso dall'infanzia, no? Che è stata interrotta dalla guerra, come oggi, perché poi quando noi si parla di immigrazione, guardate, spesso non si parla della guerra, che è uno dei motivi delle migrazioni oggi, è la guerra. Però quando si parla dell'immigrazione, come la guerra non fosse una causa. E questo giustamente nell'introduzione Gina, da pacifista, da non violente, lo dice con molta chiarezza. Quando si dovrebbe, li facciamo leggere ai nostri alunni questo libro qua, perché così imparano il valore della pace, avere una cultura che si oppone alla guerra. E quindi questo è un libro, come dicevo, ha avuto una fortuna di essere circolante in vari contesti in Italia, in vari contesti, insomma, a livello è diventato un libro nazionale. E sto per siete stanchi? Vi do un po' d'acqua? Volete un po' d'acqua? Allora, Mamadou nel suo racconto, in cui si dove mette le radici, vedete, dopo 3 anni, arrivate anche lui, 19 anni, rientra dopo 3 anni, e lì comincia a avere queste che li chiamano le lente di ingrandimento, quando alcuni immigrati si rendono consapevoli, no? Delle problematicità, delle contraddizioni, delle complessità, della varietà, sia del paese da cui sono partiti, perché a volte l'immigrato comincia a esaltare il paese da cui è partito, no? Che è un paese di fatto l'ha espulso, no? Non l'ha dato opportunità, no? Però è un bisogno, a proposito di affetti, perché è il luogo degli affetti, diventa il luogo dove di familiari, quindi è comprensibile. Però alcuni lo dicono, no? Quindi Mamadou dice: era tornata in Africa col desiderio di ritrovare e assaporare le sensazioni ovvie, tranquille di un tempo in Senegal, ma ragazza di 3 anni prima non c'era più. Mi sentivo disorientato, troppe cose mi infastidivano: i servizi che non funzionavano, le code interminabili davanti agli sportelli, i diritti più elementari ottenuti troppo spesso a son di mancia. Avevo l'impressione che tutto fosse fermo, mentre lui è andato avanti. Però interessante anche questo, perché a volte viene anche, cioè, noi viviamo, perché l'immigrazione coincide in un periodo dove vengono esaltate le differenze culturali, e che non è una questione, a mio parere, prodotta di attenzione, sì, magari, di alcuni settori della società, ma ci sono dei centri che producono pensiero, le pensano diversamente. E le dico, nel 96 viene fuori il libro di Samuel Huntington, Lo scontro delle civiltà, e lì viene teorizzato il pericolo delle diversità culturali, l'incompatibilità tra mondi culturali, partendo dalle idee che come la terra non è mai stato che Enrico il Navigatore, Vasco di Gama, no? Bartolomeo Diaz, Magellano, come si chiama il Navigatore? Vespucci, i fratelli Cobotto, Colombo, non sono mai andati in giro per il mondo. Il mondo nasce oggi quando arriva l'immigrazione, no? Che minacciano. Quindi la differenza culturale diventa esaltata, anche esaltata come fonte di pericolo. Mentre Mamadou dice: il livello di istruzione della popolazione in Senegal, e non solo, è ancora basso, ma comunque la lingua ufficiale è rimasta quella francese. Quindi i senegalesi, in qualche modo, dentro il mondo, quello che viene civilizzato. Non è la nostra lingua madre. I bambini si accostano a questa per la prima volta quando iniziano a fare la classe elementare. Ma non solo. Nelle scuole in Senegal, dice, si studia perfino il greco e il latino. I testi sono prodotti in Francia. E spesso quindi anche nel, quando si parla dell'immigrato come fosse rappresentante di cultura, si dimentica che il nostro mondo 500 anni fa, ma anche prima, scusate, adesso faccio delle delle variazioni, tutti più o meno abbiamo qualche dimestichezza con i libri religiosi, soprattutto i libri monoteistici, giusto? Almeno sentendo, non leggendo o studiando. I primi due esseri umani sono Adamo e Eva, giusto? Due primi immigrati illegali, clandestini, sono stati catapultati sulla terra, giusto? La Bibbia è il libro di storia pieno di gente viaggiante. Quindi poi, però, questa nostra incertezza, la ricerca dell'abitudine, ci porta, come dire, a pensare che, come diceva Lamarin, no? Il mondo nasce oggi, il mondo non nasce oggi. Allora, io sto per concludere. Quindi ho parlato del sole che nasce, il libro Via della pazza guerra, dove mette le radici, e poi io apposta anche ho fatto leggere a Maria Pia la poesia di Genziana. Adesso gli chiede di leggere un'altra poesia, perché poi in provincia di Bolzano ci sono diverse persone che hanno voce, perché questi racconti per dare voce, no? Come diceva, una visione etica, per dare voce alle persone, però ci sono diverse persone che hanno voce, hanno utilizzato la poesia, la musica, c'è Rodica qua, che hanno utilizzato le creatività teatrali, ci abbiamo Ida, e quindi abbiamo un scrittore albanese, scusate, che ha scritto questo libro, però è scomparso questo uomo, si chiama Spen sulla Q Noè, che ha scritto questo libro, Il confine nella nebbia, l'ha presentato nel 2013, al Centro per la Pace, nella sala rappresentanza credo del comune, però non l'ho più visto. C'è Lilia Ienava, poetessa, cantante lirica, che ha scritto diverse raccolte poetiche in haiku, quindi vuol dire un mondo vivace, dinamico, che comincia, no? Comincia da un pezzo a produrre, a dire, a rivendicare, no? E anche a rivendicare la sua voce, anche partecipare con il proprio linguaggio, perché il problema dello straniero è quello di anche di tenersi troppo educato per non turbare la sensibilità degli altri. Spesso deve rinunciare alla propria sensibilità, alla propria visione del mondo, e questo poi va a scapito dell'arricchimento di cui abbiamo bisogno per ingrandire il nostro campo visivo. L'immigrante dovrebbe aiutare, perché è una risorsa anche da questo punto di vista educativa, di saperi, per incrementare il campo visivo delle persone, almeno quelle sensibili, che si occupano dei temi dell'immigrazione. Però spesso si censura, perché non si sa mai in quale momento produca un qualche guasto. Leggiamo questo, poi concludiamo con un'altra cosa, come vi ho promesso. Anche questa è una sorpresa, perché anche questa l'autrice di questi versi conosco perfettamente e la frequento spesso, Nina Sadeghi, che come lei stessa non dice sono iraniana, ma apposta sottolinea io sono persiana. Alla memoria dei bambini che sono morti con i loro sogni. Il mare sputa speranze morte, cadaveri disprezzati sulle rocce fredde di una terra che io non riconosco. La luna forse può testimoniare il pianto del bambino in balia delle onde del suo destino. Nel cielo le stelle sono morte e l'abbraccio caldo della madre ha cantato l'ultima canzone. Ora La regola di vivere è la morte dei corpi fragili e stanchi. E l'immagine dell'ultimo sorriso del bambino è nel sole di domani. Grazie. Grazie Maria Pia. Questa è una... Per concludere, e poi ci sono domande, curiosità, critiche, tutto quanto va benissimo. Questa è una donna albanese che è stata, ha avuto insomma, un ruolo nell'ambito educativo importante. A proposito di dove mettere le radici. Ciao Giulio, grazie. Sono in Italia da 11 anni, questo libro è del 2013, credo. Sono in Italia da 11 anni, sono in attesa della cittadinanza. Mi chiedi se tornerei a vivere in Albania? Io non ho più posto chi sento mio. Interessante. Tornare? Restare? Il cuore non decide. Il cuore, il mio cuore, so... Il mio cuore sono nel paese del passato. Dell'Albania l'ultima volta ho riportato i miei libri, i miei ricordi più belli, le emozioni più intense. Sono legate a loro. Ho deciso di rileggerli tutti e trasferirmi per un po' nel paese del mio passato, che sono i libri. Con questo mi fermo. Sono a vostra disposizione, ho cercato di dire di tutti i libri, di dire qualcosa di tutti i libri che mi sono portato. Prego Abdallah. Allora, grazie della presentazione dei racconti, questi sono anche dei temi che oltre ad appassionarmi e che mi riguardano, diciamo, sono alcuni pezzi che hai ricordato che mi hanno riportato anche personalmente, quindi sono grato di vedere che diciamo, c'è una letteratura di merito. Mi ha emozionato davvero pensare che c'è una base di letteratura, di racconti, nero su bianco, di persone che in quegli anni si sono spese ad aiutare queste nuove persone, nuove persone che venivano da autentici che raccontavano totalmente diverse e quindi. Ti ringrazio per aver approfondito questo tema, non pensavo veramente ci fosse qualcosa di scritto, nero su bianco, e questo è un modo anche per sperimentare e conoscere le mie origini. Io sono nato a Bolzano, precisamente a Collina Pasquali, proprio in quel posto lì, e il custode di cui si parla lo conoscevo, conosco quelle dinamiche, le porte aperte, il tè arabo, diciamo, e tutto questo mondo qui. Quindi ti ringrazio, mi ha toccato veramente molto personalmente e... Per aver diciamo, mantenuto anche una chiave di lettura molto imparziale che ha riportato i fatti delle persone che hanno lavorato nell'associazionismo di allora, che è diverso da quello di oggi, in un mondo che è cambiato tanto ma che purtroppo in tema di immigrazione tratta lo stesso tema che veniva trattato 30 anni fa con solo diciamo, degli slogan e delle ideologie non per niente approfondite con alcun tipo di riferimento culturale. Quindi grazie di cuore, la mia non era una domanda, magari la domanda che ti pongo è se c'è altro materiale in merito e grazie ancora. Grazie Abdel, grazie a te per essere qua tra di noi, sono contento di venire a sapere che sei nato a Collina Pasquali, finalmente conosco una persona che è nata in quel luogo lì. Abdallah oggi insegna, parla diverse lingue, quindi sì, a proposito di luoghi, a proposito di materiale per la verità ci sono molte ricerche, per esempio c'è una ricerca anche diversi anni fa è stata fatta dell'osservatorio, credo, dell'osservatorio statistico della provincia sui giovani di seconda generazione Ci sono molti documenti, perché poi con il tempo, perché negli ultimi anni con lo sviluppo tecnologico comincia molto a essere il visivo, no? L'audiovisivo, il podcast, sono stati prodotti molti DVD, documentari sulla presenza degli immigrati, secondo me sono fonti importanti anche quelli, no? Che raccontano le esperienze della migrazione in Alto Adige. Mi ricordo anche c'è stato un video che ce l'ho ancora, un videocassette ancora, L'altro Alto Adige, no? È molto bello, L'altro Alto Adige, che racconta l'immigrazione di allora e non solo. Quindi molte ricerche, come dicevo, io personalmente insieme a mia collega Nora Lunardi abbiamo condotto, dove abbiamo intervistato tantissima gente. Io credo nella metà degli anni 90 ho intervistato quasi tutte le persone, le famiglie, soprattutto gli adulti che avevano figli nelle scuole italiane e città di Bolzano, no? Quindi è tutto codificato, insomma, rapporti di ricerche, molte altre cose. Io ho citato naturalmente quelli che sono un po' più recenti, anche elaborati in termini anche, diciamo, fruibili, no? Nella ricerca sociologica, dati, statistiche, schemi e teorizzazioni varie. E sì, no, poi i luoghi ho citato, perché eri per informarmi di luoghi, ho chiesto qua l'amico Salvatore Falcomatà, ricordami i posti. Allora, ex Zanardi, ex Saete, Colina Pasquali, casa Nelson Mandela, ex Zanardi, no? No, è di Via Resia, di cui Mamadou parla e parla delle problematiche che c'è, insomma. E poi tutto quel lungo da Ponte Roma fino a Ponte Palermo, da Ponte Roma fino a Extra Gobi, poi c'era un posto, la Lega Araba, un Tandeboli. E poi, però, poi adesso, al di là di questo, negli ultimi anni ci sono state anche delle esperienze, diciamo, importanti. Nel 2007 nasce il Giardino delle Religioni, per esempio, sono tutte sul piano delle pedagogie, di gesti sono importanti, no? L'Orti Sociali, sempre un'espressione di Nisa, anche lì, insomma, sono mondi dove alcune donne raccontano queste storie. Io ho organizzato qua proprio alcuni anni fa un'iniziativa in Trecci, prima della pandemia, in Trecci, dove ho invitato, era sul tema del cibo, e c'erano diverse donne, sono venuti con il raccolto di questi luoghi. Quindi vuole dire sicuramente le attrici, gli attori che si sono dati da fare a Bolzano, no, nel raccogliere la città, nel far partecipare gli immigrati, sono soggetti, sempre hanno dimostrato di essere, come dire, capaci anche di produrre altri legami. E qui c'è chi è andato via, Alberto Esteni, che era presente qua, che comunque con lui anche abbiamo fatto una prima ricerca su questi temi qua, e c'era con l'architetto Bassetti suo tempo. Quindi mi vengono figure, diciamo, istituzionali come Laura Portesi, che era referente dell'istituto pedagogico, la quale veramente si è dato molto da fare per ragionare, incentivare le scuole a ragionare sul tema dell'immigrazione. Marco Ferretti, con lui abbiamo organizzato tantissimi, diversi se non tantissimi, oltre ai corsi di formazione, ma anche convegni sull'interculturalità, dove per la prima volta i tre istituti pedagogici, ma soprattutto i due, tedesco e italiano, hanno fatto qualcosa insieme, che è una cosa, non è scontato, così come la commissione di lavoro sull'insegnamento delle lingue, no? Si è riuscita a fare una commissione anche mista per insegnare l'italiano o il tedesco ai figli, ma anche agli adulti stranieri. Quindi sono state di momenti, passaggi, esperienze molto molto importanti. E Bolzano è piena di realtà, le province, vuole dire, sia il mondo tedesco che il mondo italiano, che lavorano con molta assiduità, anche con, sinceramente, con molta competenza su questi temi. Gina, diamo a Gina la parola. Sì. Tutto suo, ma nella nuova edizione lui ha ripreso di mano che è completamente sua, perché nel primo ero coautrice e sono stata contenta di questo, ha ripreso in mano la sua storia, che più o meno arricchita di qualche particolare, non cambia molto, ma l'interessante è che ha raccontato la sua integrazione da quando è arrivato a 2 anni fa. E ha un capitolo dedicato alle donne afghane, perché lui si sente sempre anche molto legato alle vicende del suo paese, del suo gruppo Hazara perseguitato, delle donne perseguitate, e proprio il libro l'ha rivisto e ha aggiunto quei capitoli 2 anni fa, dopo la presa del potere dei talebani, che per lui è stato riaprire una ferita, ma anche una molla per aprire gli occhi alla nostra gente, a una realtà che per lo più è ignorata, ma è molto importante che circolino questi libri, queste storie, come tu dicevi, nelle scuole. Lui gira molto in tutta Italia, perché le nuove generazioni che sono sensibili tocchino con mano queste realtà, perché sembrano mondi distanti da loro, no? Ecco, per cui è importante che, come hai detto, siano voce di chi non ha voce. Grazie. Grazie a te, Gina. Grazie. Tritan, sei tra di noi. Tritan, uno degli amici che, con cui credo che abbiamo fatto una hai fatto delle interviste per qualche ricerca, giusto? Sì. Tritan. E quindi anche Tritan ha molte cose da dire. Poi sentiamo Salvatore, poi ti facciamo dire. Dai, che. Dai, Salvatore, prego. Ah, vado io? Sì. Ma perché è timido? Sì, molto. No, buonasera a tutti. Mentre parlavi mi venivano in mente delle memorie che mi hanno commosso. E devo dire la verità che quando mi hai chiamato l'altro giorno per invitarmi alla, come fai sempre, siamo amici da. Dal secolo scorso. Mi viene l'emozione di cito perché sennò sembra che voglio rovinare. Ci sono state delle persone favolose che si sono offerte a dare una mano a questa associazione che era laica, non era ortodossa. Perché nel mondo della sinistra non si faceva volontariato per dirlo. Questa è una cosa che va detta, che il volontariato si lascia fare i preti, questa era la cultura. E siccome questo è un orgoglio mio, no, nonostante dopo aver preso delle batoste, le quali ancora vado via dopo, però non è questo che voglio raccontare. Le sconfitte servono per crescere, però io credo che sia giusto mettere in ordine queste cose che tu hai detto. E mi piacerebbe che tu facessi il capofila di questi racconti, se hai voglia, se hai la forza, se ci sono le condizioni, di raccontare questi 35 anni fa, quando è nata l'associazione, quando siamo andati a Roma per protestare contro quelli che non volevano gli immigrati. Ed eravamo tre pullman, una roba, due da tre. Io ricordo che si andava in giro per le città di Buzzano che offrivano coperte, abbiamo fatto il saeta era fatto solo da ragazzi, non erano ancora arrivate le femmine, e questi ragazzi non avevano mai lavato per terra, allora io lavavo per terra, per vedere come si fa a lavare per terra, perché la dietro era abituata, si chiede lì all'Africa o dall'Albania o da dove, non era abituata a fare i lavori, perché vivevamo insieme, quindi l'ex saeta è stata all'inizio, i primi 2 anni, poi... Erano tutti maschi? Che sì. Non sono abituati. Certo, ma è vero, non erano abituati a lavare. Però la cosa bella, poi quando si è andati all'incontro con le istituzioni ci avevano dato la rappresentatività. Quando è che siamo scaduti? Quando ogni popolo, ogni nazione voleva avere la sua presidenza. Presidente dei pakistani, presidente dei marocchini, presidente di cosa? Di nulla. Perché poi, ecco, queste robe qua, lì poi ho cominciato ad abbandonare perché mi sono reso conto che non c'era più la centralità interetnica e intercomunitaria. Quindi l'invito che ti faccio, se hai voglia, io mi presto a raccontare la mia memoria, ti dico quante frustrazioni che ho subito per aver aiutato i negri o gli immigrati, aiuta la gente via calabrese che mi faceva le terminatorie, dicevo aiuta gli italiani prima, e c'era questa cultura, gli italiani prima da loro. Per cui se hai voglia, io ci metto del mio, facciamo una ricerca che parte da quando siamo partiti a Bolzano, sulle solidarietà che sono nate, sull'associazionismo, sulle cose di tutto. Ti ricordo che siamo andati a Milano a chiedere al CIN di farci dare un libro per dare agli stranieri per andare al nostro ricordo. Il primo libro che abbiamo fatto sugli immigrati l'abbiamo fatto assieme alla Silvana Nobili perché l'immigrato sapesse andare in polizia e dire mi chiamo Salvatore, vengo dalla Calabria, vorrei fare questo. Perché non lo sapevo. Il primo libro che abbiamo fatto finanziato dalla provincia, però vabbè, adesso scusate, sto scendendo in cose, però mi piacerebbe da questa serata partire con un gruppo che abbia voglia di rimettersi là con le differenze a raccontare, perché in questo momento manca, adesso si parla di centri di espulsione, cioè, siamo arrivati a bloccare le persone nei porti, a mandare via, e poi dall'altra parte invece quando sono arrivate le ragazze del mondiale della sanità servivano. Io ho fatto l'accordo con la sanità affinché queste venivano a coprire i voti. Io praticamente ho fatto un'incriminazione mandopera, perché questo era un reato allora. Adesso c'è la DECO, ma allora non c'era. Ecco, queste cose qua, la mancanza di medici, i medici che vengono a lavorare in Italia, o gli infermieri, o gli OSA, o le donne delle pulizie, o i lavori più lunghi, ma che li facevano gli italiani? Facevano gli stranieri. La mattina quando vai alle 4 per strada, quindi la gente pensa che va a fare i turni per lavorare 2 ore, queste robe qua andrebbero scritte, come hai detto tu, in questo modo anche bello di far capire alla gente che non siamo diversi, che chi è venuto qui a lavorare ha diritto, ha dignità, deve avere spazio. E poi è il futuro, perché sono persone che io ho sempre detto, non ho mai visto un ragazzo che non sorrideva. 15, 20 anni, 30 anni, gente che veniva qua alla ricerca di qualcosa, i nostri erano tristi già allora, tutti senza computer o senza cellulare erano già tristi. Grazie Salvatore, grazie a te. Tritan, sei obbligato a dire qualcosa? Avrei bisogno di qualche sollecitazione. Grazie. No, niente, nel diciamo descrivere le ex, in alcune ho lavorato anch'io, all'ex Aeta, all'ex Tregobbi, anche alla Collina Pasquali, ma non ero lì, diciamo, organico. Andavo, siccome era la stessa associazione Abbas che gestiva, io ero all'ex Aeta e ovviamente quando mancava si ammalava qualcuno, andavamo a fare qualche turno, ma non ero organico lì. E anche adesso lavoro in un ex, perché il centro profughi è l'ex Gorio, un ex caserma di carabinieri che si chiamava ex Gorio. E perciò questo mi ha fatto venire un po' di nostalgia. Poi io lavoro dal 96, penso, in questo, non penso, ma sicuramente dal 96 in questo ambito, però ogni tanto stacco, perché a me, cioè, lavorare nel sociale piace, però dopo un po' sei anche perché poi io al di fuori del mio lavoro faccio anche volontariato per i miei compaesani, diciamo, e perciò diventa. E ogni tanto, che ne so, ho fatto diverse volte l'impiegato tecnico per le bonifiche all'ex inceneritore, per anche 5 anni ho lavorato all'ex inceneritore. Perciò da questo punto di vista, diciamo, ho vissuto tutta questa stagione a volte come, se si può dire, come protagonista, a volte come operatore, a volte semplicemente come uno spettatore, diciamo. Non lo so, la cosa che mi viene da dire, sentendo tutta la cosa, cioè, vedendo anche ciò che succede proprio in questi giorni, parlando anche della mia esperienza, non so se, diciamo, perché l'emigrazione descritto così sembra una bella cosa. Adesso paragonare la mia esperienza con quello di Cristoforo Colombo, insomma, sembra un po' esagerato, ecco. Perciò la cosa che volevo dire è che io penso che sarebbe meglio per tutti se ognuno rimanesse nel suo paese. Non so se Bolzano oggi è migliore di quella di 32 anni fa, quando io sono arrivato, dal punto di vista, diciamo, sociale di tutte. E non so poi se l'Albania che io ho lasciato, dal fatto che io e tanti come me siano allontanati oggi, è meglio così, o sarebbe stato meglio se io e tanti altri fossimo rimasti lì. E questa è una riflessione che bisogna anche farlo, insomma, ecco, questo è quello che voglio dire. Io non so se avrei fatto meglio rimanere o partire. Poi uno parte, si trova qua e fa la vita, però ecco, questo è quello che volevo dire. Grazie. Sì, avventurarsi senza, diciamo, un progetto ben definito. Ma no, tu hai posto una domanda esistenziale che è presente in tutti questi racconti qua. Quale sarebbe stata la scelta migliore? Questo. Bene, Barbara. Buonasera. Ho solo 2 minuti perché mi urge un suggerimento. Di solito non do consigli se non richiesti, ma mi urge un suggerimento che forse qualcuno di voi non conosce o conosce. A Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, c'è un centro che raccoglie diari autobiografici originali, quindi scritti dalle persone stesse, lo sapete già. Però volevo proprio informare, perché c'è addirittura una sezione dedicata agli immigrati. Sì. Io sono appena stata e sono anche persone che fanno le cose con grande competenza e anche con grande cuore. Io quasi mi commuovo perché ho portato il diario di mia mamma. E quindi io suggerisco proprio di prendere contatto con queste persone che hanno pure un concorso annuale. Loro leggono 100 diari in 4, 5, 6 persone volontariamente e hanno 8 finalisti, e il finalista tra l'altro viene pubblicato, riceve dei soldi e tutto. Quindi a parte questo, comunque vengono tutti valorizzati. C'è un archivio dove vengono anche esposti se vengono lasciati, e soprattutto secondo me è un modo per valorizzare tutte queste storie. Grazie. Grazie Barbara. Barbara, a proposito di diario, posso rubarti le tue storie? No, ha raccontato la storia di sua mamma, che è una storia veramente molto, molto interessante, di, che parte durante la Seconda Guerra Mondiale e va a Vienna per lavorare. Quindi sapete cosa vuol dire? Da Milano nel 1943 andare a lavorare a Vienna. Cioè no, quindi ha fatto un, c'è un film, filmato su queste cose qua. Io, bene, grazie Paolo. Bene, credo Gabriele.